È un po' come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Siamo qui, 18:37, i numeri di telefono per chiamarci in diretta, 800-24-0024 è il numero verde per le telefonate, sms come al solito 349-238-6666, la zanzara è radio24.it. Andiamo subito a sentire come riassumono la giornata i telegiornali di prima serata, TG2. Ultime battute della campagna elettorale. Berlusconi, ogni regione conquistata in più sarà un successo. Bersani, noi puntiamo a guidare la maggioranza delle regioni. Il Vaticano smentisce le nuove accuse del New York Times al Papa. Non è intervenuto su alcuni casi di pedofilia in Germania. Per la Santa Sede si tratta di una feroce onda mediatica. Il piccolo ucciso a Genova è del compagno della madre, il DNA trovato sul corpo del bambino. La donna aveva detto: merito l'ergastolo come madre, ma non ho ucciso mio figlio. Aperta un'inchiesta sul caso del bambino irrequieto che la maestra ha fatto picchiare più volte dai compagni in un asilo del Ferrarese. L'insegnante denunciata si è dimessa. E andiamo su Studio Aperto. Ultime ore di campagna elettorale, i leader impegnati nel rush finale. Giornata piemontese per Bersani, che a Torino ha incontrato gli operai della Fiat. Paura poco fa per un pacco con della polvere sospetta arrivato ad Arcore, nella villa del Premier. Sul posto medici e carabinieri. Votate per il vostro futuro. Così Berlusconi ai microfoni di Studio Aperto si rivolge ai giovani elettori. Poi rilancia, dopo le regionali, via alla grande stagione delle riforme. Spero in un nuovo clima politico. Questa sinistra sa solo calunniare. Siamo i ribelli della montagna, di grandi stenti e di battimenti. Puntata speciale di Anno Zero, Rai per una notte, di ieri sera, è iniziata in questo modo. Vi domando, desiderate degli onori? Delle ricompense? La vita comoda? Esiste per voi l'impossibile? Volete che torni al governo questa sinistra che reintrodurrebbe subito l'ICI? Volete una sinistra che raddoppierebbe le tasse sui vostri risparmi, sui BOT e sui CPT? Volete lo Stato di polizia tributaria che verrebbe fuori da questa situazione e che è lo Stato che vuole la sinistra? I ribelli della montagna. Cioè la trasmissione di ieri sera è iniziata, che ha avuto un grande successo di pubblico, eccetera, eccetera, è iniziata con un paragone chiarissimo tra Mussolini e Berlusconi. Quindi Santoro. Caro presidente Napolitano, noi non siamo al fascismo. Fra poco andremo a votare in tutte le regioni italiane in cui si vota e la gente sceglierà liberamente per quale governatore votare. Ma certe assonanze sono comunque preoccupanti. Questo Santoro, secondo me, ho visto la trasmissione registrata questa mattina e non tutta, il commento migliore è stato quello di Aldo Grasso sul Corriere della Sera. Sentiamo dunque queste incitazioni all'odio di cui parla Aldo Grasso a partire da Luttazzi, sentite. E quando quel fazioso di Berlusconi vi dirà che voi siete mossi dall'odio, voi replicate con le parole del grande oratore latino Quintiliano, che ricordava: odiare i mascalzoni è cosa nobile. Perché è cosa nobile? Ce lo ricorda Aristofane nei Cavalieri. Diceva: ingiuriare i mascalzoni con la satira è cosa nobile, a ben vedere significa onorare gli onesti. Quando Luttazzi conclude il suo monologo, scrive ancora Aldo Grasso, ricordando che odiare i mascalzoni è cosa nobile, non fa un enorme regalo elettorale a Berlusconi? Gad Lerner, chi se n'è accorto della censura e chi no, invita a fare una sorta di lista che francamente non capisco. Io vengo qui per dirvi che riguarda anche me, che vado in onda, il vostro problema, e che dovremo anche un po' mettere agli atti, chi se n'è accorto e chi no, chi ha protestato e chi è stato zitto, chi ha detto che se c'è stata la censura era solo colpa di uno dei censurati che si era comportato male, o chi invece ha detto che un capo di governo che telefona all'autorità indipendente è un problema per la democrazia. Allora, intanto la trasmissione si è conclusa in questo modo, cioè con un giuramento, non l'ho visto, l'ho solo sentito e non so dunque se sia una parodia del giuramento di Berlusconi oppure una cosa seria, un giuramento fatto da Santoro insieme ai suoi, tutti intorno. Fate come me, mettete la mano sul cuore. E vengo vicino. E ripeti, no? Sì. Ognuno a modo suo. Io, Michele Santoro. Io, Vauro Senesi. E Ruotolo. Io, Sandro Ruotolo. E Travaglio. Io, Marco Travaglio. Il pubblico. Giuriamo solennemente. Giuriamo solennemente. Che ora e sempre. Che ora e sempre. La faremo fuori dal vaso. Le parole che ha usato Berlusconi nei confronti di Santoro, e continuo a non capire perché Berlusconi parla di Santoro, sono obbrobrio, poi ve le faremo ascoltare più avanti, e poi una lugubre carro di Teschi, un lugubre carro di Teschi. Giampaolo Panza, passando a cose più serie, la campagna elettorale di Berlusconi, secondo lui, è stata questa. Quella di Berlusconi è una campagna vecchia, ripetitiva. Io ho già sentito dire queste cose un sacco di volte, a partire dal 94. L'ho visto anche troppo incazzato, troppo arrabbiato. Oggi un tassista che mi ha portato alla 7, io parlo sempre con tutti perché sono curioso, mi ha detto che avrebbe votato per il centrodestra, per la signora Polverini, però criticava Berlusconi perché nei comizi grida troppo, perché si fa prendere dall'animosità, perché ce l'ha con i giudici, perché ce l'ha, invece di spiegare che cosa farà nei prossimi 3 anni, si scatena sempre contro le persecuzioni sue, quindi vecchia, brutta campagna elettorale. Siamo qui, 18:47, i numeri per chiamarci sono sempre gli stessi, numero verde 800 24 00 24. Voglio farvi ascoltare di Giampaolo Panza, sempre questa mattina da Omnibus, una cosa che ha detto su Di Pietro. Che è molto significativa e che, se vogliamo, è un po' nella direzione di quello che noi diciamo da ormai qualche mese, anche se Di Pietro nell'ultima parte della campagna elettorale sembra essere meno incisivo e meno, come dire, meno presente anche sulla scena rispetto al solito. Panza su Di Pietro, sentite. Penso che Di Pietro, che è ancora giovane e vitale, invece di stare in Parlamento, se la democrazia è finita, dovrebbe darsi alla macchia, trovare un mercante d'armi che lo rifornisce di mitragliette ultimo motivo e fare la resistenza armata e convincere i giovani che lo seguono, a cominciare dal suo illustre figliolo, a seguirlo. Invece uno che sta sempre a parlare, parla, la libertà è finita, ma lui continua a parlare. Un ascoltatore da Vicenza, Jacopo, mi scrive: faccio sentire l'analogia sessuale di Luttazzi. Jacopo, direi di no, perché l'ho sentita, non mi fa nemmeno troppo ridere, non è nemmeno nuovissima, devo dire la verità, perché Luttazzi ci insiste molto sul suo blog e anche nei suoi spettacoli, non è granché, dunque non la faccio ascoltare, a parte che è immandabile dal punto di vista, come dire, del messaggio e delle parole utilizzate. Vabbè che alla Zanzara si può tutto, però no, la parodia di Berlusconi è quello che non posso dire. Pasquale da Ravenna, buonasera. Buonasera, Luciani. Dica. Senta, no, semplicemente per dire che intanto non sono d'accordo né con Panza, per quello che dice Panza, né con lei. Per quello che dice Panza non sono d'accordo che Berlusconi lo vede un po' diciamo incazzato, io lo vedo esattamente come al solito e come tutti gli anni, come tutte le volte, agli ultimi giorni, con queste invasioni impressionanti nelle televisioni, con uno squilibrio impressionante. cosa che fa tranquillamente senza che nessuno possa... Sì, ma Panza possa... non parlava di questo, eh. Panza non parlava degli spazi elettorali, parlava del modo di fare campagna elettorale di Berlusconi e magari anche del volto di Berlusconi, che gli sembrava un po' più tirato, incazzato, ha detto, rispetto, rispetto al solito. Forse tirato, sì. E invece per quanto riguarda lei, invece non capisco come davvero lei... molte volte ironizza su quando gli telespettatori e i radioascoltatori vogliono evidenziare invece questa invasione assoluta che rasenta gli stati sudamericani di tempo fa. Cioè io non riesco a capire il fatto stesso che tantissima gente le fa evidenza questa cosa, le dovrebbe far capire. Non so di cosa sta parlando Pasquale, mi scusi. No, lì quando la gente dice qua siamo al regime, siamo al si incazza oppure. Ma io dico come la penso, non mi arrabbio né butto il telefono giù. Semplicemente ma lei, questo io penso. Due o tre giorni vedo quello che è sempre successo Pasquale, ed è una cosa normale. Ma non, di che vogliamo parlare, dell'anomalia di Berlusconi? Pasquale, vogliamo parlare dell'anomalia di Berlusconi? No, ma la vede come una cosa normale. Ma che c'entra Mussolini? Cosa c'entra Mussolini? Ma io non ho parlato di Mussolini, cosa c'entra il regime? Ma come, cosa il regime è un'altra cosa, il regime è un'altra cosa, si vada a leggere qualche testo, qualche testo di scienza della politica. È chiaro che non è regime, ma l'ha detto anche lo stesso Santoro ieri, non siamo regime, però no, non siamo al fascismo, ha detto Santoro, non ha detto siamo al fascismo, però mi sembra che il fatto che questa persona poi intervenga poi in orari particolari, secondo me lei insiste su questo punto, va bene, d'accordo, lei è arrabbiato perché Berlusconi, a parte che bisognerebbe poi ricalcolare alla fine i minuti eccetera eccetera, probabilmente è più presente rispetto al mattino a Canale 5. Sì, ho capito, ma guardi che c'è stato anche Bersani a Canale 5. Guardi, se l'intervento di io vedo tutti i telegiornali, magari si accorge che è triste fare questo minutaggio delle presenze di Berlusconi nei telegiornali? È un discorso di una tristezza infinita? È triste che esista questa cosa qui, no? Che è triste il fatto di fare i minuti, è triste il fatto che esista questa cosa qui. Perché se lei vede, se ha seguito, forse lì non ha il tempo, anzi sicuramente lo farà meglio di me, sì. Dove l'intervento all'Italia 1, a Rete 4, Rete 4 ormai non fa più testo, o a Canale 5, a TG1, cioè questo qua è una cosa impressionante. Va bene, d'accordo, ho capito, grazie Pasquale. Salve, buonasera. Andrea da Modena. Sì, salve, buonasera. Dica. Ma guardi, allora volevo velocemente dire la mia opinione sullo spettacolo di Santoro, che è questa: si tratta della quintessenza del peggio della sinistra. Su questo dal mio punto di vista non ci sono dubbi, cioè tutto quello che è di negativo c'è nella sinistra è concentrato lì. In maniera molto chiara. Ecco, scusi un attimo, Andrea, mi dicono che Uno Mattina, che era citata dall'ascoltatore di prima, la trasmissione sul Rai 1, ha avuto come ospite Bersani, credo, questa mattina. Oltre 12 minuti, Berlusconi 13, credo, no? Ieri o poco, insomma, un tempo lo stesso. Poi, per carità, nel complesso, se uno va a fare il conto generale, Berlusconi sarà stato presente 10-15 minuti in più su tutte le principali reti. Andrea, prego. No, ma volevo dire questo, è dire che alla fine, se dovessi sintetizzare con un aggettivo molto più educato di quelli usati, c'è questa sinistra che aspira ad essere una sinistra di governo. A chi si riferisce lei, scusi, Andrea? Scusi? A chi si riferisce? Mi riferisco all'atmosfera generale, mi sembrava davvero un ritrovo di invasati. No, ma lei parla della trasmissione di Santoro. Della trasmissione sempre di Santoro. Sì, però non è che sia identificabile come la sinistra la trasmissione di Santoro. Ecco, però su questo volevo aggiungere un'altra cosa, cioè che cosa dice la sinistra riformista moderna su questa trasmissione, per esempio? Cioè bisogna avere il coraggio, e quello credo manca alla sinistra, di prendere le distanze a un certo punto. No, secondo me bisogna prendere le distanze, guardi, a parte le esagerazioni, il fascismo, Mussolini eccetera eccetera, e l'odio nei confronti dei mascalzoni di Luttazzi, bisogna prendere le distanze dalla dirigenza Rai, che ha permesso ancora una volta di creare le condizioni perché ci fossero le trasmissioni come quella di ieri sera. Insomma, questa è la sostanza. La chiusura del talk show è stata una cosa talmente ridicola e grottesca che poi ha provocato il martirio di Santoro. La ringrazio. Massimo da Pistoia. Sì, Buonasera dottore, la ringrazio dello spazio. Dica. Che ci lascia. Anch'io volevo intervenire sulla trasmissione di Santoro con una considerazione e una domanda a lei e agli ascoltatori. Ma se una trasmissione con i toni che ho sentito, perché io non ho visto assolutamente Santoro e mai lo vedrò, ma se una trasmissione con quei toni fosse andata in onda su Canale 5 e l'obiettivo di tale violenza fosse stato Bersani, che cosa sarebbe successo? Massimo, non lo so, so solo che queste trasmissioni non ci sono dall'altra parte, ma questo non c'entra niente. La ringrazio. Franco da Taranto. Salve, buonasera. Dica. Lei come sta? Sta bene? Me la cavo. Sono contento. Senti, io volevo sapere una cosa. Siccome dobbiamo votare, sì. Naturalmente in Italia si vota per il meno peggio normalmente. No, lei vota in Puglia, ha i suoi candidati in Puglia. Sì, dico, si tende di votare per il meno peggio. Non lo so, lei vota per il meno peggio. Magari io voto per chi, per la persona di cui mi fido. Non necessariamente si vota per il meno peggio. Vabbè. Lei vota per il meno peggio? Sì, penso di votare per il meno peggio. E chi vota, se posso... Ancora non lo so. Ancora perché, non lo so. Bene, meglio così, se no ci bacchettano, ci dicono che stiamo violando la par condicio. Ho visto la conferenza su Sky 24 di Berlusconi. Sì. E faceva alcune affermazioni. Ne ha fatte tante, quale? Sì, alcune affermazioni. Sì. I giornalisti non gli hanno fatto una domanda. E quale domanda avrebbero dovuto fargli? Se lui ha corrotto Mails oppure no. Vabbè, Franco, senta, ci sentiamo dopo il GR, mica la voglio lasciare così. Appesa a questo interrogativo cruciale. Bene, 19:18, numeri di telefono per chiamarci in diretta, 800 24 0024, andiamo a sentire il TG3. Scandalo pedofilia, nuovo attacco del New York Times al Papa, Ratzinger sapeva del caso tedesco, il Vaticano speculazioni. Forti polemiche dopo il boom di ascolti per Santoro a Bologna, PD la censura è un boomerang, il premier obbrobrio da sanzionare. Berlusconi, qualunque sia il risultato, il voto non inciderà sul governo. Sorpasso della Lega al Nord è un'ipotesi che non esiste. Bersani a Torino tra gli operai della Fiat, dal governo solo promesse mancate, tornare ad occuparsi dei problemi della gente. Storico accordo tra Washington e Mosca sul disarmo nucleare, sale intanto la tensione tra le due Coree, battaglia in mare. Un bimbo di 8 mesi ucciso a Genova, sul piede un morso ed il DNA del compagno della mamma, si valuta la posizione della donna. Arriva la vita è una cosa meravigliosa, dei Vanzina, commedia all'italiana dei giorni nostri, con tradimenti, intercettazioni telefoniche e lieto fine. Bene, Sky TG24. Regionali, Berlusconi a Sky TG24, l'esito del voto non avrà effetti sul governo. Bersani tra gli operai di Mirafiori, dall'esecutivo solo promesse mancate. L'UDC contro il bipolarismo per Di Pietro, campagna falsata dal premier. Fiat Marchionne contro politici e sindacati, contro di noi un tiro al bersaglio. Pedofilia dai giornali americani, nuove accuse al Papa, il Vaticano, attacchi indegni. Sentenza della Cassazione, chi minaccia il licenziamento compie un reato. Il bimbo ucciso a Genova, si aggrava la posizione del compagno della madre. Alta tensione tra le due Coree, nave di Seul affondata da un siluro. Disarmo Russia-USA, intesa raggiunta, la firma a Praga l'8 aprile. Domani il match scudetto tra Roma e Inter, sale la febbre tra i tifosi. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. Come ha reagito Berlusconi alla trasmissione di Santoro? Soprattutto, questa è la mia domanda, perché ha reagito? Perché parla della trasmissione di Santoro? Forse dico, potrebbe ottenere un vantaggio da questa campagna elettorale che nelle sue battute finali è diventata un Berlusconi versus Santoro. La prima reazione è stata obbrobrio. Sentite. Preferisco naturalmente non parlare di questo perché dovrei essere molto severo nei confronti di ciò che è stato fatto in queste trasmissioni, che sono veramente un obbrobrio, che sono delle cose incivili e barbare, che non devono essere permesse in una democrazia, quello cioè di mettere sotto accusa qualcuno che magari è già anche sotto processo dai giudici, che viene accusato di tutto e di più e che non ha la possibilità di difendersi. Queste sono cose che non si devono consentire mai. Poi c'è una citazione finissima, perché prima abbiamo detto, e in realtà tutte le agenzie hanno battuto in questo modo, hanno interpretato in questo modo, la trasmissione di ieri dice: Berlusconi è stato un lugubre carro di teschi. Questa è l'interpretazione delle agenzie, in realtà è lugubre carro di tespi. Ripeto, una finissima citazione, perché Tespi è stato un semileggendario poeta e drammaturgo greco antico. Addirittura a Tespi viene attribuita l'invenzione della tragedia greca, e Tespi si spostava da una città all'altra dell'Attica con un carro sul quale innalzava un palco con due attori con i visi dipinti che cantavano dei cori di argomento storico. Insomma, in questo modo Berlusconi ha dipinto la trasmissione di Santoro. Ritengo che molti vostri telespettatori, guardando questa manifestazione, abbiano tratto delle conclusioni nella direzione opposta a quelli che probabilmente erano gli intendimenti dei protagonisti di questo lugubre carro di Tespi, che viene portato in giro in diverse città, mi dicono che vogliono fare. Il carro di Tespi, cosa finissima. E allora alcuni di questi Tespi, iniziando con un cantore della rivoluzione, che devo dire è anche curioso perché è un personaggio di una certa età, come Mario Monicelli, che si è convertito lui, che è Mario Monicelli, alla rivoluzione. Monicelli, come finisce non lo so, finisce, ma io spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. C'è stata in Inghilterra, c'è stata in Francia, c'è stata in Russia, c'è stata in Germania, dappertutto, meno che in Italia. Quindi ci vuole qualche cosa che riscatti veramente questo popolo che è sempre stato sottoposto. Se 300 anni che è schiavo di tutti. E quindi se vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici. Se no va dalla malora, che come sta andando ormai da tre generazioni. Verrebbe da dire, ma di cosa stiamo parlando? E però poi di fronte a Monicelli uno resta un po' più calmo. E ancora un Monicelli, tanto per gradire, un Monicelli scatenato contro Berlusconi. Non c'è un Monicelli contro Berlusconi, sì, sulla libertà di stampa, queste cose qua, libertà di espressione, eccetera. Monicelli. Sono stati 20 anni sotto un governo fascista, ridicolo, con un pagliaccio che stava lassù. Avete visto quello che ha combinato? Ci ha mandato l'impero, ha fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero, ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il Mussolini ha sempre ragione, lasciavano lavorare, tutti stavano buoni e zitti. E gli italiani di allora assomigliano anche agli italiani di adesso? Sì, perché hanno detto, vedi, c'è questo il grande imprenditore, c'è questo imprenditore che ha detto io vi voglio, lasciatemi governare, votatemi, perché io mi sono fatto da solo, sono un lavoratore, sono diventato miliardario, vi farò diventare tutti milionari, benissimo, a voglia, e avanti. Sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e fanno. Gli italiani sono fatti così, vogliono che qualcuno pensi per loro e poi vada, se va bene va bene, se va male ecco che poi lo impiccano a testa sotto. Questo è l'italiano. Avete capito? Sì. 800 24 00 24. Beh, sulla questione del New York Times e delle accuse nei confronti di Papa Ratzinger, uno strepitoso e arrabbiatissimo padre Livio Fanzaga. È vero, confesso, è vero che io prendo volentieri in giro gli atei. Amici, è impressionante vedere come Satana devasta le menti e inquini i cuori. Scatenato, pensa che ci sia un attacco concentrico contro la Chiesa, Fanzaga. Dunque, il New York Times praticamente accusa il Papa e Bertone, quando erano alla Congregazione Dottrina della Fede, di aver ordinato il silenzio su un prete pedofilo. Il Vaticano risponde: attacco ignobile. Comunque è una falsità quello che dice il New York Times, documenti alla mano, però sparano, capito? Potete sparare e ammazzare, dopodiché se il morto sopravvive, bene, se no vado a quel paese. Padre Fanzaga e la mandria. Il ritmo delle rivelazioni si sta facendo troppo tambureggiante. Vieni sospetto al Corriere, qui c'è qualcosa che non funziona. Per non alimentare i sospetti di una crociata contro una chiesa descritta come un recettacolo di pedofili. Ma sento un po' i cornuti, i buoi che danno il cornuto all'asino. Sono una mandria maleodorante, perché questa è la verità. Sono una mandria maleodorante, tutta quattrini e sesso, e attaccano la chiesa. Dunque, questo è il mondo, una mandria maleodorante, questo è il mondo, cari amici. Voi che ci vivete lo sapete. Lussuriosi, cattivi, invidiosi, ladri e chi più ne metta, questo è il mondo. E si veste pure da verginella, eh? E quello è il bello. E Repubblica, cosa fa? Repubblica gode di questo dramma della Chiesa, sentite. Chi gode è Repubblica, perché lei è riuscita col titolo cubitale in prima pagina a associare la parola pedofilia al Papa. Questo è il godimento del sinedrio di Repubblica. Dunque il titolo è: pedofilia, accuse al Papa dagli USA, Ratzinger sapeva, Bertone ordinò il silenzio. Capito? Godi, sinedrio di Repubblica, finalmente si lecca i baffi, anzi si liscia la barba. Sì, per carità, arriverà il momento in cui guarderemo da su in giù. Arriverà il momento. Questo è il titolo di Repubblica. Da su in giù, cioè all'inferno. Guarderemo da su, dal paradiso, all'inferno, quelli di Repubblica. Fai capire, secondo te, che è successo con questa storia delle liste? Lì a Roma. Lo so, anche qui ci doveva essere un milione di persone, si è sdraiato, tre radicali qui alla piazza, non l'hanno fatti passare, un milione di persone, ci doveva essere qui, guarda, come siamo io, sti radicali si sdraiano, io sono un mese che sto là dentro, non mi fanno uscire da là, ma guarda, ho mangiato 2000 panini, guarda, le dico una cosa spaventosa, no? Ma mi sto ingrassando perché sti radicali si sdraiano dappertutto, a piazza San Giovanni, durante la manifestazione, dovevano essere veramente un milione, si sono sdraiati i radicali, erano quattro gatti, secondo Verdini, due gatti, secondo la questura. Roberto Benigni, ieri sera, durante la trasmissione di Santoro, intervistato da Sandro Ruotolo, 19.35, 800 24 00 24, eravamo rimasti appesi con il signor Franco da Taranto. Buonasera. Buonasera. Allora Franco, che mi stava dicendo? Intanto le voglio dire che sono d'accordo con lei su Luttazzi. Infatti io ho visto la trasmissione quando è arrivato lui e ha cominciato a parlare. Dopo alcune barzellette poi ho cambiato perché ho capito di che cosa avrebbe parlato. Cos'è che non le è piaciuto? Non mi è piaciuto quando comincia a parlare, lui c'ha l'ossessione. Del sesso, l'ossessione del sesso. Ma in particolare di un certo tipo. Cioè di una certa pratica sessuale. Sì, esatto, evidentemente. Io insomma. La metafora del paese. Non mi piace comunque, sì. A prescindere poi. Vabbè, è la metafora del paese preso da dietro da Berlusconi, diciamo. Questa è la metafora. E non voglio aggiungere altro, Franco. Niente, stavo dicendo il fatto che io sentì parlare della sentenza Mills, no? Sì. Nella quale Mills alla fine ha commesso il reato di essere stato corrotto, che però è stato prescritto per 4 mesi. Ora, mi hanno insegnato che se A è uguale a B e B è uguale a C, vuol dire che A è uguale a C. Vabbè, Franco, ma insomma, siamo al solito argomento: Berlusconi, no, Miz, corrotto, corruttore. Cioè, qual è il punto? A prescindere se è uno di destra o di sinistra, ma io quando sento dire Berlusconi che cosa dobbiamo o che cosa non dobbiamo fare, sì, ma se è un corruttore, mi posso fidare di una persona? Beh, Franco, lei non si fida, è pazzesco. Ma è possibile che in Italia dobbiamo avere come capo di governo uno che praticamente. Franco, ma nessuno le vieta di fidare, ma tutti dicono un sacco di cose, come viviamo nel mondo nel mondo migliore possibile. Mi sembra che siate tutti dei pangloss. Sì, sai, ho capito, pangloss, no? Sì, ma che c'entra adesso, Franco? E com'è che c'è? Viviamo, cioè succedono delle cose che in un altro paese farebbero saltare all'aria chissà che cosa, e qua invece tutto ho capito, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo smettere di pensare ad altro, dobbiamo concentrarci, ma tutti sono informati, abbia pazienza, Franco, ma tu un sacco di gente è informata su questo, su. Franco, non è così, un sacco di gente è informata su questo, se ne parla spessissimo, in tutte le sedi possibili e immaginabili. La ringrazio. Bruno da Vicenza. Buonasera. Dica Bruno. Buonasera. Vabbè, il mio intervento onestamente si riferiva a una cosa che sentivo ieri per radio, solo che sentendovi gli spunti che saltano fuori sono sempre infiniti, tipo quella di Monicelli prima mi ha fatto morire. Poi la ringrazio perché mette su Fanzara ogni tanto, che è veramente una cosa che mi fa sballare fortissimo. Io mi riferivo appunto a ieri quel vigile del fuoco che si lamentava perché ha dovuto fare quell'intervento quando Calderoli appunto ha dato fuoco alla migliaia di leggi, no? Sì. E non capivo appunto perché si lamentava, insomma, in fin dei conti succede spessissimo che ci sono delle manifestazioni dove devono essere presenti i vigili del fuoco, devono essere presenti carabinieri, polizia, che onestamente possono essere utilizzati in maniera molto molto migliore. Sì, Bruno, diciamo che non si sentiva la necessità di coinvolgere i vigili del fuoco nella messa in scena di Calderoli, insomma, questo non c'è dubbio, Bruno. Sì, però voglio dire, se poi uno può dire non si sente la necessità nemmeno delle manifestazioni o di non so cos'altro, però francamente, insomma, al di là poi della questione di merito, 375.000 leggi, ieri abbiamo avuto Gian Antonio Stella che ce n'ha parlato e ha detto che non esiste, non sta in cielo né in terra questo numero. E io credo che, insomma, mettiamo pure che lasciando anche da parte il coinvolgimento dei vigili del fuoco, ma si rende conto di quello che è successo, di un ministro vestito con un giubbotto di pelle che prende una sorta di lanciafiamme, dà fuoco a una pila di migliaia di leggi e di carte, insomma, perché? Può averla fatta una celebrazione un altro ministro quando, non so, fanno la TAV, ma non è la stessa cosa. Il taglio dei nastri esiste da quando è un conto a taglio di nastri, cioè un nastro è la prima volta che riusciamo a eliminare un po' di leggi, secondo me poteva essere, lasciamo la primo cosa, non è, è discutibile se siano state eliminate oppure no, cioè, se serve avere eliminato è discutibile, si discute del numero di leggi eliminate, ripeto, ma bisogna fare queste messe in scena quando uno abolisce le leggi, uno semplifica le cose? Ma secondo me, come in altri casi, sono state fatte delle celebrazioni. No, però Bruno, mi scusi, lei adesso, non per farmi affari suoi, lei è un simpatizzante della Lega? Sì, certo, sì, onestamente diciamo che non dico chi voto perché sono simpatizzante della Lega. Ecco, perché uno di fronte a una cosa di questo tipo, anche se è un simpatizzante della Lega, non può dire è una buffonata? Me lo spiega perché? No, ma ci sono molte cose che la Lega fa a volte che sono un po' buffonate, onestamente. No, ma sì, d'accordo. Mi sembrava così una buffonata. Questo non le sembra una buffonata. Va bene, d'accordo, a lei non sembra una buffonata, io rispetto la sua opinione, per carità. La ringrazio. Luca Telese, buonasera. Buonasera. Ciao Luca, in viaggio verso la Puglia, che vai a fare in Puglia? Ma non ho detto per telefono i miei assistenti che sono anche persone che conosco. No, sono già in Puglia da un giorno e mezzo e seguo questa sfida. Ma che ci sei andato a fare in Puglia? Scusa, è tutto fatto in Puglia, è tutto deciso, che ci sei andato a fare? E vedi, ne sai più di me. E beh, ma vengo proprio perché se Vendola vince, forse è una delle serate più interessanti da raccontare. Io ormai ho quest'idea che sono per il centrosinistra, queste regionali sono delle primarie, quindi se vincono Vendola e Labonino potrebbe essere una sfida dei prossimi candidati premier, o Vendola o Labonino. Addirittura. Così come se vince Cota in Piemonte è il passaggio simbolico di consegne al nord dello scettro alla Lega, alla Lega. Lega. Ecco, ma gli ultimi sondaggi, non so se li possiamo dire, ma anche se non li possiamo dire, diciamoli lo stesso. Cosa raccontano? Cosa hai tra le mani? Che sondaggi hai? Quanti punti di vantaggio? Sono tre istituti, questi sondaggi riservati, che i politici girano per messaggino ai giornalisti e dicono che ci sono sei regioni sicure al centro-sinistra, quattro al centro-destra, diciamo due meridionali e due che già aveva. E ce n'è tre che dovrebbero essere sul filo, insomma. Sul una... filo. Allora facciamo un giochetto, che è quello regione per regione, le nostre previsioni, mie e di Luca Telese, così ce le scriviamo e poi confrontiamo il nostro disastro lunedì pomeriggio, perché le previsioni sono sempre disastrose. Allora, nel Lazio la mia previsione è questa, lo dico, la mia previsione è che la Bonino vince di 2 punti. Addirittura, niente meno. Sì. Guarda, l'avrei data per sconfitta sicura, perché non solo per la mia presenza del Salerno, ma perché penso che abbia sbagliato campagna. Non ha parlato all'elettorato del centrodestra e non ha parlato del Lazio. Però detto questo, l'assenza della lista di PDL è un miracolo. E allora la tua previsione qual è? Che vince per mezzo punto l'Abbonino. L'Abbonino per mezzo punto? Per mezzo punto o per? Oh, vabbè, allora non ti esprimi, o vinci o perdi il mezzo punto. Allora perde, così sono contento di strapparti questo patticino. Polverini mezzo punto. Come perdere a sorpresa. Sì, Polverini mezzo punto. Piemonte. Piemonte vince la Bresso. Bresso, anche secondo me è un punto, però non di molto. Sul e gode come un riccio Casini, che può dire, t'ho fatto vincere io. Vabbè, è inutile che ti chiedo Veneto e Lombardia, perché non c'è storia. C'è storia. Liguria? Liguria dovrebbe vincere Burlando. Burlando, Burlando questo... pure secondo me, Burlando di un paio di punti. Certo. E vabbè, Marche non c'è storia, Umbria non c'è storia, Toscana non c'è storia, Emilia Romagna non c'è storia, e andiamo alle cose serie, oltre a Lazio. Campania. Perde De Luca. Perde De Luca, Potrebbe essere l'unica sorpresa, ma perde, e Puglia vince Vendola. De Luca di quanto perde? Ma secondo me perde di un bel po', perché tutti si illudono che la crisi del bassolinismo possa essere risolta con un uomo che dice parole colorite. Io non ci credo, lì c'è una frattura profonda dell'elettorato. Caldoro secondo me vince di 3 punti là. Calabria Scopelliti di 4 secondo me. Sarebbe un cappotto. E magari invece Agazio tiene. No, non c'è partita. Presa, no. E piglia. Magari finisce 1,5 punti sotto. Chi lo sa? No, va bene. Ma... Però perde. Sì, perde, non c'è. Ma dove stai? Con Vendola? Sento, sto dietro con Nicky. Stai con Vendola? Stiamo seguendo con un gruppo di giornalisti. Ma dove è andato Vendola? Dove è andato? Sta andando verso il suo comizio di chiusura. Ne ha fatti solo 8 oggi. Ed è abbastanza impressionante, proprio. È abbastanza spettacolare. Cioè, arriva su questi palchi con le grida. Ah! Cioè c'è una sorta di adorazione, no? Ma se non è molta gente, viene proprio a vedere lo spettacolo, magari anche gente di centrodestra, capisci? Cioè è proprio un rituale, lui sta in piazza, fa questi comizi in cui ogni volta tira fuori una cosa diversa, aggancia un racconto, cita una persona che conosce nella piazza, e c'è questa cosa. È veramente, ieri a 00:40 eravamo in fondo al Salento, in un paese che si chiama Melendugno, e c'erano, col freddo, coi cappotti, c'erano 1.500 persone. Questa sera chiude a Bari e poi chiuderà sotto comizio a Terlizzi, sai, tipo Eros Ramazzotti nella sua piccola terra promessa. La cosa che più mi ha colpito, vorrei provare a scrivere in un pezzo oggi, è che Vendola ha fatto un 2.0, sai, l'upgrade, ci sei? Sì, ci sono. Rispetto alle sue primarie, cioè adesso è quasi ostentatamente, il suo pezzo forte è l'esaltazione di quello che dicono in un suo limite. Allora c'è la pubblicità di Palese che usa la voce di Vendola per dire che parla male del centrosinistra, e lui va nelle piazze e dice infatti anche il centrosinistra non va bene, gli dicono che ha fatto gli errori, lui dice ne ho fatti tanti di gli errori, lo sapete, ma abbiamo imparato a stare facendo. Quindi è sinceramente, se vince una campagna di terrorismo, fa l'elogio della disabilità, dicendo che l'elogio dei suoi errori, insomma. E poi anche l'elogio della disabilità in opposizione, cioè il berlusconismo ha creato un modello, il modello del benessere, della fitness, invece io ho le gambe che mi tremano, mi commuovo, eccetera, e fa questo, siamo tutti disabili. Senti, ti faccio adesso, per chiudere questo collegamento, ti faccio ascoltare una cosa, perché io so per il motivo per cui tu non ami molto De Luca, il motivo è questo. Mi è capitato di sentire quel grandissimo sfessato di Travaglio che aspetto di incontrare per strada al buio qualche volta a Roma, perché gli devo questo pipì, perché i pipì, quelli sono furbi, capite, i pipì. Però non c'è Travaglio, non è corretto, non è che voglio difendere. No, è scorretto lui che parla 10 volte per televisione su cose su cui non capisce niente, su cui io non c'entro niente. Non sono scorretto io, imbecille. Luca, devo dire che a personalità non si discute, De Luca. Sì, io l'ho mandato anche a Tetris questo spezzone, ma credo che la sua teatralità a questo personaggio, un po' archilochesco, lo spaccone, non... solo che penso che non si esce col trucco della faccia dura, della piccola invettiva e della minaccia da una crisi. Sì, forse il centro-sinistra lì in campagna. In campagna serviva un voltapagina, una cosa diversa, invece arriva il sindaco sceriffo che gridava agli extracomunitari, fetenzia, caccia i documenti, cioè non ci credo, capisci? Tu dici giustamente, ma al confronto il gesto del ministro Calderoli è un gesto da lord inglese, capisci? Forse bisogna ristabilire che in politica c'è chi fa l'attore e c'è chi fa il politico, non si possono fare tutte e due le cose. Grazie, ciao Luca, 1948, ascoltatori, andiamo a Catania, Alessio, anzi Pierluigi, provincia di Taranto. Cruciani, buonasera. Dica. Buonasera, guardi, io chiamo, sono di Taranto, ma sto chiamando da Galatone. Vorrei approfittare, che è in provincia di Lecce, vorrei approfittare di questo collegamento per dirle, Cruciani, che spesso io la condivido con Radio Maria. Qui Radio 24 si vende in fase alterne con Radio Maria. Ma lei ha ragione, Maria... cosa dobbiamo fare, Pierluigi? Giro questa, sì, questo suo, tra virgolette, rimprovero ai nostri uffici questa tecnici. Ave Maria quotidiana serale, insomma. Vabbè, non se la prenda troppo con Radio Maria, anche loro no. No, Radio Maria si sente dappertutto, quindi anche nelle gallerie. Guardi, Cruciani, mi riallaccio all'articolo di Sartori che lei ha letto su Corriere della Sera, che fa una critica aspra, diciamo, a Santoro e ai suoi ospiti. Ma io potrei in parte condividere una critica del genere se Santoro trasmette da una TV pubblica. Ma ieri sera trasmetteva da un teatro, diciamo, un palasporto, per cui rivendico per Santoro, i suoi ospiti e tutti i presenti il diritto di espressione e non di critica feroce. Poi vorrei invitare Sartori, non so se l'ha fatto mai, ma di andare a sentire un comizio del PDL, di Berlusconi. Io ci sono andato un paio di volte, non sono di destra, sono di sinistra, ci sono andato un paio di volte e mi creda, l'odio che emerge da questi comizi, l'odio verso l'altro, e non c'è paragone tra l'odio che esce nei comizi berlusconiani rispetto all'odio che lui dice esce dalle trasmissioni di Santoro. Non c'è assolutamente paragone. Sarebbe bello che Sartori dicesse qualcosa anche a proposito, insomma, di quello che esce fuori dai comizi berlusconiani. Ma chi, rispetterei la sua posizione. Ma chi, scusi? Sartori, cose, Grasso, chi? A chi si riferisce? Ah, mi scusi, Aldo Grasso, mi scusi. Perugi, il punto fondamentale è che Santoro in teoria non fa il politico, mentre Berlusconi fa il politico. Sono due cose un po' diverse. La ringrazio. C'è la libertà di espressione? Sì, certo che c'è la libertà di espressione. Infatti lei si sta esprimendo e Santoro si esprime tranquillamente su ogni televisione, eccetera, eccetera. La ringrazio. Alessio da Catania. Buonasera, dottor Cruciani. Allora, l'intervento era relativamente alla trasmissione di Santoro. Io credo che Berlusconi non sia una persona alla quale possa mancare l'opportunità eventualmente di replicare, eccetera, mentre se Santoro, diciamo, viene precettato, viene chiusa la trasmissione, non viene data la possibilità di dare delle informazioni relativamente a delle indagini che riguardano un uomo pubblico, un uomo molto importante per questo paese, delle indagini in cui si parla di violenza, in cui si parla di minacce, in cui si parla di violare un diritto costituzionale della libertà di informazione, io credo che sia una cosa molto grave. Quindi diciamo, non facciamo l'errore di guardare il dito anziché la luna. La trasmissione di Santoro in alcuni punti è stata anche un circo, sono d'accordo con lei, l'intervento di Tuttazzi è esagerato, però dico, che cosa vuole dare come messaggio questa trasmissione? Il fatto che non è possibile che una persona che abbia molti soldi possa fare tutto quello che vuole. In questo paese i soldi contano troppo, io sono sicuro. Beh, Non mi pare che fosse questo il messaggio. No, invece il messaggio è questo. Non mi pare che il messaggio fossero i soldi, scusi, i soldi di Berlusconi, ma un'altra cosa. Dico, in questo paese, no, il messaggio è che una persona non si può permettere, anche se è il Presidente del Consiglio, ma soprattutto se è il Presidente del Consiglio, di far chiudere una trasmissione perché si parla... si potrebbe parlare di processi che lo riguardano, eccetera eccetera. Scusi, io avrò diritto di sapere che Berlusconi è indagato alla procura di Trani perché guardi, ha fatto che anche senza Santoro lei queste notizie ce le avrebbe lo stesso. Certo, infatti è certo, ma infatti non è guardi stata di Alessio, la io sono contro la, io sono contro la chiusura di tutte le trasmissioni, con me sfonda una porta aperta, ma non mi può far passare l'idea che la nostra libertà dipende dall'esistenza di Santoro, insomma non, su questo per carità, cioè non è che la nostra libertà di espressione dipende dall'esistenza di Santoro, passi attraverso la permanenza per l'eternità di Anno Zero alla RAI, non è così. Non è che la trasmissione possono anche chiudere, possono cambiare palinsesto, eccetera, eccetera. La questione è che, come dire, non si può... Innanzitutto non possono perché c'è una sentenza del giudice, una cosa abbastanza nuova. Però lei ha capito cosa voglio dire, cioè, se non mi esprimo meglio. Secondo me non è possibile che un uomo politico, anzi una delle più importanti cariche dello Stato, intervenga su una commissione di vigilanza. Ma sì, adesso su questo siamo d'accordo, certo. Lei dice il messaggio è questo, ma nessuno infatti critica il fatto che Santoro abbia fatto una trasmissione. Io ho preso spunto da alcuni interventi in questa trasmissione, insomma, per far capire che poi alla fine, al di là del messaggio che certamente può essere anche condiviso eccetera, c'era una base abbastanza chiara in questa trasmissione, non l'ho sentita per un attimo. Scusi, l'apertura della trasmissione era con le immagini di Mussolini. Ho capito. Ma, però, Alessio, ma quando uno vuole dare un timbro a una trasmissione, apre con Mussolini e Berlusconi. Ma cosa bisogna dire più di questo? Purtroppo noi, i nostri nonni che hanno vissuto quel periodo, non ci sono più. Ma se noi avessimo chiesto, potessimo chiedere loro in quel momento, loro non si sono resi conto che Mussolini era diventato Alessio, insomma, lei pensa che siamo alla vigilia del fascismo? Cosa vuole che le dica? Non siamo alla vigilia del fascismo. E allora perché parla dei nonni? Però è perché è ovvio che una delle prime cariche dello Stato non può dire a un commissario... E questa è l'anticamera del fascismo? Secondo lei? Ma se violano... Certamente l'anticamera del fascismo, va bene, benissimo, va bene, cioè se lei pensa che chiamare Innocenzi al telefono sia l'anticamera del fascismo, faccia pure, Alessio, ognuno la può interpretare come vuole. La ringrazio, Emiliano da Roma. Pronto? Buonasera, dica. Buonasera Cruciani, guardi, sono nel traffico di Roma, quindi se sente un sottofondo, insomma... Siamo abituati, dica. Allora, guardi, no, io volevo riallacciarmi un momentino all'inizio della trasmissione al discorso sul presunto regime, che vedo che si imperversa un po' questa sera, no? Io credo che non si possa parlare di regime esistente in Italia, ma c'è un sistema egemone soprattutto nella cultura e nell'orientamento del pensiero. E io credo che questo si evince anche un po' dagli interventi che lei sta raccogliendo stasera, come anche un pochino in altre sere, cioè a sentire queste persone, insomma, si ha quasi un po' la sensazione che ci sia quasi un'isteria dal ritorno del fascismo, della dittatura, che secondo me non si regge proprio, ma dimostra piuttosto che c'è un regime, ma che è dall'altra parte, secondo me. Cioè, io sono un elettore moderato, dico molto francamente, ritengo che Berlusconi nell'intervento politico italiano sia fattore di contrasto a questo tentativo di egemonizzare la cultura e sostentamento del pensiero. Emiliano, non la seguo su questo andazzo che il regime degli altri, il regime culturale della sinistra. Non ho capito. Cerchiamo di riannodare le fila del discorso dopo i telegiornali. 800 24 00 24 TG1. Berlusconi al TG1, campagna elettorale scandita da inchieste a orologeria, Bersani da governo solo promesse non mantenute. Casini, il nostro voto contro la Lega, Di Pietro, mandare a casa l'esecutivo, il PDL, andare a votare, Bossi, rafforzare il federalismo. Marchionne, non abbiamo abbandonato l'Italia, contro la Fiat tiro al bersaglio, Montezemolo, cuore e radici restano qui. Disarmo nucleare, accordo Stati Uniti-Russia, firma l'8 aprile, scontri a Gaza, uccisi due soldati israeliani e due miliziani. Sequestro lampo a Roma, tre ragazzi ostaggio di un giovane di origine rom, poi arrestato, soldi e gioielli per riscatto. Le prime vacanze arrivano a Pasqua, 7 milioni gli italiani in viaggio, scelgono soprattutto agriturismo e città d'arte. Ogni salto un urlo, in Francia una famiglia denuncia una scuola di jumper, è un incubo averli per vicini di casa. Facciamo un po' di zapping, TG5. Scegliendo il nostro simbolo, il simbolo della libertà, del popolo della libertà. Lei più volte nel corso... E poi TG1. A questo si è aggiunta l'ingiusta penalizzazione che abbiamo subito con l'esclusione della lista del PDL a Roma, che è un sopruso. Dunque, intervista in contemporanea, l'ultimo giorno di campagna elettorale in apertura, sia al TG1 che al TG5. Sì, non so il conteggio dei minuti, però sta andando ancora in onda l'intervista al TG1. Una croce, una X sul simbolo e sul nome di Renata. E poi anche l'intervista al TG5. I governatori della sinistra si sono opposti, quindi votando i candidati del Popolo della Libertà, che si potrà essere sicuri che questo non accada più. Andiamo ancora al TG1. Il leader del PD, solo promesse mancate. È finita l'intervista. Giorgio Balzoni. Torniamo al TG5. Vi segnalo 5 punti concreti che sono comuni a tutte le regioni: l'immediata realizzazione del piano casa, una sanità più efficiente con il taglio alle liste d'attesa e agli sprechi, la lotta alla burocrazia con l'abrogazione di almeno 100 leggi regionali. Bersani, adesso al TG1. Un'impresa in un sol giorno, la tutela del verde con la messa di... 1.250 euro che è a rischio sempre di cassa integrazione e che ha un interrogativo sul futuro del suo lavoro e della sua famiglia. Va bene, 800 24 00 24, andiamo a sentire i titoli della 7, che non ha, per fortuna dico io, nessuna intervista in apertura a Berlusconi. Campagna elettorale agli sgoccioli, Berlusconi, il voto non cambierà il futuro del governo, le riforme siano condivise, conviene a tutti. Bersani si aspetta un'inversione di tendenza e dice: il vento sta cambiando. Nuovo assalto del New York Times contro il Papa. Ratzinger, dicono gli americani, non avrebbe punito un prete pedofilo quando era arcivescovo di Monaco. Per il Vaticano si tratta di pure speculazioni. C'è un tiro al bersaglio contro la Fiat, accusa Sergio Marchionne davanti agli azionisti e cita politici, sindacati e anche imprenditori. L'azienda resta italiana, assicura l'amministratore delegato, ma deve crescere all'estero. Chiediamo rispetto per la Fiat. Sale la febbre da scudetto per la sfida di domani tra Roma e Inter, che potrebbe valere il campionato. Mourinho lascia ancora fuori Balotelli, mentre torna Francesco Totti. Va bene, Michele da Bologna, buonasera. Cruzani, io non sempre sono d'accordo con lei, però l'ascolto sempre. Penso che questa sia una buona base per la democrazia. Meno male. Allora, una cosa, abbiamo sentito anche adesso, lei all'inizio della trasmissione ha detto che probabilmente ci sono poche differenze tra Berlusconi e la sua controparte. In realtà io credo... Io ho detto che ci sono poche differenze tra Berlusconi e chi? Sì, all'inizio del suo discorso lei ha detto probabilmente ci sono alcuni minuti di differenza. Io credo che... Non lo so. Le dico molto sinceramente, sono un elettore del centrodestra un po' stanco di Silvio Berlusconi, vorrei un'alternativa, comincio a cercare un'alternativa, però effettivamente, voglio dire, anche l'Agicom ha dato delle sanzioni, sia al TDC, sia al TD1. Per lo spazio maggiore dato al PDL. Ecco, è accertato che secondo me lui si è preso più spazio. Però questo, sono d'accordo anche con lei quando dice che è triste dover contare i minuti su queste cose. Le idee, secondo me, non hanno bisogno di un conteggio di minuti, ma hanno bisogno di sostanza. Chiaramente il fatto che il Presidente del Consiglio sia anche proprietario del più grosso gruppo televisivo privato purtroppo necessita di una regola che comunque per me è sbagliata, però purtroppo bisogna assolutamente regolamentarla. Io volevo intervenire però sul discorso sulla trasmissione di ieri sera. A me è piaciuto, io sono, l'ho detto prima, sono del centrodestra, a me è piaciuta, mi è piaciuto Cornacchione, mi ha fatto molto ridere, mi ha fatto ridere anche Luttazzi, devo essere sincero. Naturalmente non sono d'accordo su quasi nulla di quello che loro hanno detto, però è sicuramente stato un bello spettacolo. L'unica no, ma cosa... Michele, tra l'altro nell'articolo che ho citato all'inizio della trasmissione di Aldo Grasso si notava questo, al di là della questione del martirio di Santoro e di alcune uscite degli ospiti, l'odio di Luttazzi, l'accostamento con Mussolini, in realtà scrive Aldo Grasso che dal punto di vista creativo e delle diversi dei diversi stili giornalistici e di costruzione di una trasmissione è stata una trasmissione... Certo, l'ho letto anche l'articolo e sono d'accordo, è una bellissima, un bellissimo spettacolo, che però io credo che deve essere chiaro a tutti, sia a noi che agli elettori di sinistra, che questa cosa, quella cosa lì non può andare su una televisione, non può andare su una rete pubblica, deve girare per i teatri e poi la gente paga, come per lo spettacolo di Travaglio, paga per ascoltare qualche cosa qui. Credo che sia giusta non farla andare sul canale privato, sul canale pubblico. Ho capito. Ecco, l'ultima cosa. Perché lei dice questo? Ma per un motivo molto semplice, perché è chiaramente fassiosa. E una cosa chiaramente fassiosa, secondo me, non può accedere a degli spazi che devono essere per forza pagati un po' da tutti. Quindi deve cercare, diciamo, delle strutture o dei canali che siano naturalmente pagati da chi le vuole ascoltare. Ecco, io ritengo solamente questo. Tra parentesi, e chiudo, credo che comunque sia stato un grosso spot anche qui per Berlusconi, forse un aiuto insperato perché la sua campagna stava andando secondo me molto male. Il Popolo della Libertà si sta raggruppando proprio dopo questo spettacolo televisivo e forse lui ne prende dei vantaggi. Credo che Bersani, secondo me, se fosse intelligente, non lo è intelligente sicuramente, ma se capisse, diciamo, la cosa, secondo me, se prendesse le distanze da quello che è successo ieri sera, secondo me ne avrebbe un grosso. Ma secondo me, scusi, non c'è bisogno, non c'è bisogno che un politico commenti una trasmissione televisiva. In questo caso una trasmissione è andata in onda, come dice lei, nemmeno sui canali, diciamo, tradizionali. La ringrazio. Andrea da Bergamo, buonasera. Luciani, buonasera a lei. Dica. Prendo un po' spunto da quello che è stato l'intervento dell'ascoltatore precedente. Volevo fare una nota sull'intervento di Monicelli di ieri. Io credo che la trasmissione di ieri abbia denotato un errore molto molto grosso dei Santoro in Friends, perché si vedeva l'accanimento, quasi la bava alla bocca, nei confronti del nostro Premier. Credo che la violenza sia della sigla iniziale che dell'intervento di Luttazzi abbiano permesso a Berlusconi di spostare il dito su quello che sono delle persone che non sono poi alla fine, che noi le troviamo alla fine sulle liste elettorali. E quindi come poter dare colpa a Berlusconi di accusare di estremismo questi signori, quando al contrario si dovrebbero parlare un po' di più di quelli che sono stati i programmi totalmente assenti da questa campagna elettorale. Per cui sono d'accordo con l'ascoltatore precedente quando diceva che questo è un inaspettato aiuto a Berlusconi, ripeto, proprio perché gli permette di puntare il dito contro qualcosa che non siano i suoi avversari politici, ma che sia una manifestazione, peraltro a mio modo di vedere forse non totalmente voluta, soprattutto con la violenza con cui i concetti anti-berlusconiani sono stati esposti, ma ripeto, concetti anti-berlusconiani, per cui non concetti politici a mio modo di vedere. Va bene, Andrea. Un po' cosa ne pensa anche lei. La ringrazio, non so, vantaggio o comunque un favore a Berlusconi, non lo so. Certo, quando la situazione si radicalizza Berlusconi di solito ne trae vantaggio, però non so francamente, non so dire francamente quanto poi questo possa tradursi in voti alle elezioni regionali. Siamo qui alle 20:12, 800 24 00 24. Antonio da Napoli. Salve, buonasera Luciani. Buonasera Antonio. Volevo dire che l'intervento di ieri sera del regista Monicelli è stato un intervento che io trovo perfetto, trovo giusto. Le sue parole secondo me sono effettivamente quello gli italiani quello che gli italiani sono, cioè sono delle pecore. Perché è impossibile non vedere come quest'uomo si sta manipolando tutti, E Antonio, lei dà ragione a Monicelli, va bene, registro che lei è d'accordo con Monicelli. L'intervento l'intervento di Luttazzi 0, sì, l'intervento di Benigni 10, l'intervento di Monicelli è stato un intervento onesto. Onesto, va bene, no, ma perché? Vabbè, oh, che devo fare, Antonio? A me non è piaciuto. Faccio una previsione. A me non è piaciuto. Scusi un attimo, Antonio. Se a me non piace l'intervento di Monicelli, cosa sono? Se non lo condivido, no, no, cosa sono? Connivente con regime? Che no, sono? Assolutamente. Ah, no, assolutamente. Appunto, ci sarà la libertà di pensare. Faccio una previsione. Sì, mi faccio una previsione. Lei sarà il prossimo direttore del TG1. No, guardi, è impossibile che ciò accada. È impossibile che ciò accada, non solo nei prossimi anni, anche per i prossimi 20 anni, forse per i prossimi 30, 40, 50. Vedremo, gli italiani magari mi nominerà un governo di centrosinistra, Antonio, come direttore del TG1. Questo è possibile? Non credo. Io credo di sì. Credo tempi, che questo sia. Negli ultimi tempi non è più obiettivo come una volta. No, io non sono più obiettivo, Antonio. Non lo so. Vede che lei pensa semplicemente che se uno ragiona in un modo che a lei non piace, non è obiettivo. Cosa no, vuole? Negli ultimi tempi mi dispiace. Io ascoltavo. Ma lei le ha ascoltate le trasmissioni degli ultimi giorni, Antonio? Sì. Le ha ascoltate? E secondo lei non sono obiettivo? Negli ultimi tempi, vabbè, ma lei mi deve citare qualcosa, così una sensazione, una sua sensazione. No, è una sensazione mia personale. Una sensazione, carità, va bene. Non sono la verità assoluta. È una sua sensazione, va bene, io la rispetto questa sensazione. La ringrazio, Antonio. Buonasera. Grazie. Marco da Milano, buonasera. Cruciani. Prego. Volevo intervenire parlando di numeri, visto che stiamo parlando di... Sì. Diciamo, di che numeri vuole parlare? I numeri che ha dato la GCOM sulla differenza dello spazio dato nei telegiornali. Innanzitutto, sì, ricollegandomi a quello che dice l'ascoltatore di prima, è il metodo che le contesto. Cioè, se lei dice... Ma su che cosa? Di che stiamo parlando? Sul fatto che lei fino a pochi giorni fa è andata avanti dicendo che la televisione incide poco. Ma questo io lo penso ancora, che se la televisione incida poco nelle scelte elettorali, penso di sì. Sì, ok. Cioè che non sia così rilevante, non dico che sia irrilevante, non sia così rilevante come qualcuno ci vuole far credere. E io le dico che l'opinione pubblica italiana, sì, l'Italia è diciamo un'anomalia in Europa, nel senso che leggiamo molto meno i giornali rispetto agli altri paesi europei. Ma questo è un discorso che si può fare sempre. Al 70% si fonda così. Vabbè, ma questo qua non dimostra, che sono i telegiornali a indirizzare il voto degli italiani. No, questo... però le do dei numeri su cui ragionare, così li stanno anche i telespettatori. Mi dia dei numeri, avanti, Sì, le do i numeri. 3 ore e 45 sì, lo spazio dedicato al PDL. Ma dove? In che cosa? In quale luogo? Nei telegiornali, fisico? Nei 6 telegiornali nazionali nell'ultima settimana dal 14 al 20 marzo. Sì. 3 ore e 45 al PDL contro 1 ora e 30 al PD. Qui sì, non si parla di minuti, qui si parla del doppio. Sì, è calcolato anche il governo naturalmente in questi 3 ore e 45 e di solito... Sono numeri dati dalla GCOM. Marco, in questi numeri è calcolato anche il governo. Assolutamente. Il governo non è espressione del partito del sì, PDL. Ma il governo di solito quando c'è un governo spesso si dà spazio alle posizioni del governo di qualunque colore sia questo governo. Perfettamente d'accordo, ma non il doppio. Perfettamente d'accordo, deve rispecchiare anche come è divisa l'Italia. Guardi Marco, ma io non sto mettendo in dubbio questi numeri. Perché lei mi parla di questi numeri come se io li mettessi in dubbio? Mi scusi. Perché mi dice si parla di minuti, è triste una persona, vi voglio dire. No, ma lei, io dico, è triste che la discussione politica, secondo me, ma non dico che non si può fare, lei lo sta facendo, fa benissimo a farlo, secondo lei certo. Questo dato è fondamentale ed è fondamentale sapere che il PDL, la maggioranza e il governo hanno avuto il doppio dello spazio rispetto al centro-sinistra e secondo lei questo dato influenzerà il voto di domenica e lunedì prossimo, è così? Assolutamente sì. Secondo me assolutamente no. Questo è il mio. Ma non è una questione su cui uno può dire il suo parere. Ma come non è una questione su cui uno può dire il suo parere? No, perché l'opinione pubblica, secondo i politologi. Scusi un attimo, Marco. Sì. Ma quando Berlusconi ha perso le elezioni, ed è successo che abbia perso elezioni locali, elezioni nazionali, è successo. Allora che vuol dire? Che questi numeri non erano così? No, non erano così influenti, cosa vuol dire? Non mi spieghi. Vuol dire che probabilmente il metodo informativo che ha usato era meno invasivo. No, non è stato così vincente. Ho capito, ma allora vede che conta, vede che conta anche il messaggio che si dà. Uno può ripetere pure, può stare pure in televisione tre ore, se poi dà un messaggio negativo le persone non lo votano. C'è il traffico. Eccoci qua, 20:19, 800 24 00 24. Francesco Rutelli, un'agenzia di pochi istanti fa, a proposito del paragone fatto da Santoro tra Berlusconi e Mussolini in apertura della trasmissione di ieri sera, ha detto: non ci vedo niente di male, è stata l'espressione di un'idea. Casomai grave che non ci sono stati confronti televisivi neanche in Afghanistan, avviene una cosa del genere. A Rutelli ancora non va giù il confronto televisivo che non c'è stato nel 2001, nella campagna elettorale del 2001. Va bene, volevo far concludere prima di parlare con un ospite, Marco da Milano. Allora Marco, prego. Sì, no, terminando, questo non vuol dire che non pensi che l'opposizione non sia mediocre, non stia dando un messaggio mediocre, quindi in questo senso posso essere anche d'accordo con lei. No, io non ho detto che l'opposizione dà un messaggio mediocre, penso anzi che la campagna elettorale, anche se un po' a traino di quello che diceva Berlusconi, magari dimostrerà che il Partito Democratico non è poi così morto come si pensava mesi fa. No, io volevo dire semplicemente una cosa, che sì, è abbastanza triste concentrarsi ancora una volta sulle presenze, sul minutaggio di Berlusconi questa sera in contemporanea, perché? In apertura TG1 TG5, perché poi alla fine non è con questo che si vince. Berlusconi è ancora convinto che se stasera, che è venerdì, l'ultimo giorno di campagna elettorale, ha fatto due interviste in apertura al TG1 al TG5 e Bersani è andato solamente in registrata, diciamo, ripreso da un comizio con un servizio, diciamo, questa cosa può influenzare il voto di domenica e lunedì. Secondo me no, cioè, o comunque qualcosa certamente influenzerà, ma non in maniera così decisiva. Lei invece è convinto che queste cose siano fondamentali per le elezioni. Bah. Secondo me l'informazione televisiva è fondamentale, io rimango della mia ipotesi, della mia idea. Un'altra, altre due piccolissime cose. Una sola, concludo. Marco, una. Allora, una, io la chiamai a ottobre chiedendole un intervento su un'intervista, l'intervista con la L maiuscola rilasciata da Borsellino prima di ancora morire. Ancora con l'intervista di Borsellino cosa. Ma che cosa perché vuole che le dica su questa intervista di Borsellino? Non me la ricordo, non mi interessa adesso parlarne. Dell'intervista di Borsellino, no, Marco. No, cosa vuole che dica? Due giorni dalle elezioni regionali dobbiamo parlare dell'intervista di Borsellino. Sì, sa perché le deve interessare. Non ho detto che non mi interessi, non mi interessa adesso parlarne. Ho capito, ma io poi dica, se no vi dice che la voglio censurare, mi dica. No, io le dico, nel momento stesso in cui Borsellino nel 92 dice che dell'Utria e Mangano sono dei mafiosi. Va bene. Voglio dire, ci sono varie interpretazioni su questa intervista, se vogliamo entrare nel dettaglio, entriamo pure nel dettaglio. Marco, senta, abbia pazienza, ma perché io questa sera devo parlare dell'intervista di Borsellino? Perché mi vuole costringere a parlare dell'intervista di Borsellino? Perché non ne ha parlato ottobre? Ma perché ne dovrei parlare? Se scelgo di non parlarne è perché è una trasmissione basata su cose diverse, non sull'intervista di Borsellino. Abbia pazienza. No, però se lei parla ma ci sono migliaia di blog che parlano dell'intervista di Borsellino. Si colleghi su internet e parli, dica quello che vuole. Se lei parla di mafia, deve parlare di queste cose. Sembra che o è male informato, sono male informato, oppure è proprio in malafede. E allora forse tutte e due, Marco. Forse tutte e due. A questo punto io, per liberarmi da questa intervista di Borsellino, lei mi insegue con questa intervista di Borsellino, non so più cosa devo fare. Non lo so, non ho studiato la questione, non lo so. Io sono onesto, dico non lo so, non le so dare un parere, non ho studiato la questione. È contento? No, non sono contento. Non è contento. Aspetta ottobre una risposta. D'accordo. Informi, perché se vuol parlare di mafia. Beh, io infatti non parlo di mafia. La ringrazio. No, però ottobre ne parlava. Ma non mi ricordo l'occasione in cui ne parlavo, il modo in cui ne parlavo. La ringrazio, Marco. Ci sentiamo un'altra volta, sempre su Borsellino. Sì, mi richiami lei. La richiamo io, benissimo. Appena mi informo, la richiamo. Mario Dinolfi, buonasera. Buonasera, eccoci qua. Ciao Mario, non voglio parlare di intervista di Borsellino, di come è andata secondo te questa campagna elettorale? Ma, non lo so, viene descritta molto male. Io non ho trovato una brutta campagna, sinceramente. Cosa ci hai trovato di interessante? Sui temi ho sentito delle cose un po' nuove dai governatori, è stato seguito poco secondo me il profilo della campagna sui giornali locali dei governatori ed è invece stato qualcosa di interessante perché si misuravano delle distanze ed è indubbio che Formigoni la pensi diversamente da Penati su molte cose, è indubbio che De Luca la pensi diversamente da Caldoro, qui a Roma sicuramente c'è una distanza siderale tra Polverini e Bonino. Ecco, se andando sul terreno delle cose e diciamo anche grattando la patina di tutta la superficialità della comunicazione nazionale, si poteva andare a trovare qualcosa di interessante, anche di una politica che sul territorio poi un po' si modifica. La politica, le elezioni regionali sono estremamente concrete perché vanno a toccare la gestione di miliardi di euro, non è no, ma devo dire che su questo hai ragione. Io l'ho detto a tutti quelli che ci hanno chiamato e ci hanno detto: ma che brutta questa campagna elettorale, i governatori, i candidati, non si parla delle cose concrete, di quello che si vuole fare nelle regioni. Ho detto: attenzione, a livello nazionale probabilmente i temi sono altri, i leader parlano di altro, Santoro eccetera eccetera. A livello locale poi io non la seguo quotidianamente, ma magari... la fortuna di girare molto, e devo dire ho trovato anche a livello proprio di informazione sulle testate locali, che poi sono un tessuto connettivo molto importante del sistema di informazione italiana, ho trovato degli approfondimenti fatti molto bene, e devo dire anche su qualche quotidiano nazionale, non so se posso citare, ma La Stampa ad esempio ha fatto un approfondimento bellissimo proprio la settimana scorsa, proprio identificando tutti i punti di distanza di tutte le candidature nelle 13 regioni, ed era uno studio che serviva a capire che poi in realtà in ballo c'era qualcosa di più significativo rispetto alle chiacchiere di questi giorni. Ecco, a proposito di chiacchiere di questi giorni, a me pare incredibile che negli ultimi giorni di campagna elettorale la contesa sia quasi Santoro versus Berlusconi, o no? Beh, se sei troppo intelligente per non sapere che è normale che sia così. Che è un terreno favorevole a Berlusconi questo. Non so chi è favorevole, è un terreno su cui ormai siamo da 16 anni, quindi insomma non una volta è Berlusconi contro tutti, poi alla fine è sempre la stessa cosa, non mi stupisce, non mi appassiona, ecco, non grido allo scandalo, la personalità di Berlusconi è talmente forte che ogni volta va costruendosi ovviamente uno sparring partner di turno. Questa volta è stato il caso di Santoro, che è stato peraltro molto bravo dal punto di vista tecnico a infilarsi in questa dialettica, perché secondo me ha avuto degli sprazzi di genialità nel diventare l'alternativa sostanziale al berlusconismo, per cui però diciamo è questione secondaria, che fra 7 giorni non ricorderemo più, secondo me. Fra 7 giorni potremmo trovarci davanti all'Italia molto cambiata. Sono curiosa di vedere le regioni a chi andranno, sono curioso di vedere come verranno determinate le giunte regionali. Ci sono, ripeto, elementi anche di peso, dei rapporti di forza all'interno di vari territori che sono da misurare, sono molto interessanti e veramente credo che travalicheranno ogni questione che stiamo affrontando in queste giornate. Sì, probabilmente martedì o già da lunedì sera si potrebbero fare altri discorsi rispetto... Sì, no, gli echi ci saranno ancora, io dico, fra una settimana. Se ci diamo 7 giorni, a venerdì prossimo troviamo l'Italia che parla d'altro e forse di qualcosa di più interessante, perché ricordiamolo, comincia una stagione di 3 anni senza elezioni, che l'Italia non viveva da non so quanto tempo, e 3 anni senza elezioni saranno una partita complicata e interessante, molto appassionante da gestire per i partiti e non solo, anche per le opinioni pubbliche. Allora, l'ho fatto prima con Luca Telese, un giochetto un po' su quello che può accadere. Lazio, la mia previsione è Bonino 2 punti in più, non è una previsione di tifo, cerco di ragionare al di là delle mie preferenze personali, che poi Lazio anch'io non ci ragiono, sono. Vado contro preferenza, io voterò Bonino, però vincerà Polverini. Di quanto? Di 1 punto. Di poco. Puglia? Beh, Puglia non sembra che non ci sia discussione, non lo so. Puglia, sono curioso, ecco, è una delle mie più forti curiosità. Se Vendola vince bene, cambia qualcosa di importante a sinistra. Piemonte? Piemonte e Brescia senza problemi, che c'è l'UDC. Beh, senza problemi non lo so, secondo me è 1 punto, solo 1 punto. No, di più. 5-6. Di più? Sì. Campania? Campania, Caldoro facile. Caldoro facile, addirittura? Sì. Per me è Caldoro più 3. Calabria, Scopellidi 4 punti in più, secondo me non no, c'è dubbio. Lo affonda proprio Scopellidi all'Oiero, ricordati che c'è Callipo che lo ha scavato proprio. Sì, quello è vero, però 4 punti sono tanti, non è che sono pochi. Ha fatto i conti, devi fare 100, secondo me Callipo va al 15. Addirittura. A quel punto Scopellidi viene da 20 all'Oiero. Vabbè, insomma, le cose più interessanti le abbiamo. Zaia, Formigoni non hanno problemi. Liguria Burlando sicuro? Liguria proprio non lo so. Guarda, io ci sono stato, ho fatto un po' di campagna elettorale in Liguria. Biasotti molto forte, non sono in grado di incerto, dare. Incerto. Sì. Ci sentiamo la settimana prossima. Grazie, Mario. Un ciao. Abbraccio. Ciao. Eccoci qua, 20:34, 800-24-00-24, TG2, anche il TG2 si apre con un'intervista a Berlusconi. Berlusconi lancia un appello agli elettori, scegliere il PDL per fermare la sinistra e attacca i processi in TV contro di lui e contro il governo. Bersani contro Berlusconi e la Lega, il PD tiene unita l'Italia, ci aspettiamo la maggioranza delle regioni. Ultimi appelli da Casini, Di Pietro e Bossi. Il Vaticano smentisce le nuove accuse del New York Times al Papa, non è intervenuto su alcuni casi di pedofilia in Germania. Per la Santa Sede si tratta di una feroce onda mediatica. Aperta un'inchiesta sul caso del bambino che la maestra ha fatto picchiare più volte dai compagni in un asilo del Ferrarese. L'insegnante denunciata si è dimessa. Maxi sequestro di figurine dei calciatori della Panini taroccate. Le ha scoperte la Guardia di Finanza grazie alle segnalazioni dei collezionisti. E ad essere contraffatti sono stati un po' anche i nostri sogni. Bene, Massimiliano Da Lucca, buonasera. Buonasera, Cruciati. Salve, sentivo prima che l'intervento dell'ascoltatore mi ha preceduto, quello che lei diceva a proposito dei TG che non influenzano il voto, così come le trasmissioni politiche. Infatti sorridevo perché dicevo, ma Berlusconi allora è talmente autista che va in tutti i TG, poi fa chiudere anche le trasmissioni politiche che non influenzano il voto, ma dovrebbe allora mantenerle aperte. Massimiliano, la sento male. Saro da Messina. Sì, buonasera Cruciani, mistica che attesa. È un piacere quasi sentirla, Cruciani. Prego, dica. Sì, io premetto subito che qui in Sicilia non ci sono nessun tipo di elezione, quindi diciamo sento un po' l'eco che viene dalla cosiddetta informazione. Il senso del mio intervento voleva essere semplicemente una puntualizzazione su quella che diciamo la questione dell'informazione in Italia, come la vedo io ovviamente soggettivamente. Secondo me c'è un certo tipo di trasmissioni, tra cui possiamo anche assimilare Anno Zero, sicuramente danno fastidio perché vanno a riferire o dire cose, al di là della falsiosità che comunque si riconosce, dire cose che un altro tipo di informazione non dice. È questo che irrita soprattutto il nostro Presidente del Consiglio. Lei dice, eh? Secondo me Cruciani sì. No, ma sicuramente, sicuramente Berlusconi è irritato da Anno Zero, questo non c'è dubbio, sì. Allo stesso tempo, secondo una corrente di pensiero, sono trasmissioni che gli procurano anche un vantaggio, perché c'è no, la rappresentazione di un nemico. Sì, no, sì, però non lo so, insomma si specula molto, si discute molto di queste cose. D'altra parte queste trasmissioni che dice lei non fanno altro che far montare ancora di più l'indignazione di quelle che sono contro. Voglio dire, anche la sua trasmissione, tutto sommato, Cruciani, io la quasi apprezzo, sa perché? Perché lei, mi consenta, non è una sviolinata, perché lei è un continuo rincorrere, è un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Io la capisco perfettamente e riconosco che lei è anche bravissimo nel far questo, ma lei fa un tipo di informazione, Cruciani, in cui perlomeno dà voce, fa parlare a chi non è d'accordo con un pensiero, a chi parla di regime. Lei dice che non esiste regime e odia le espressioni quando si dice che sì, sono la stampa serva. D'accordo, posso anche capirlo dal punto di vista deontologico e del rispetto per i colleghi, ma come dovremmo definire gente come Feltri, Belpietro, Fede, Minzolini, come si chiama, Forbice, Ferrara? Saro, tipo di informazione guardi, ognuna di queste persone ha la sua professionalità, la sua personalità, poi lei può giudicare quello che vuole, però insomma, fare un unico calderone dove mettere tutte queste persone insieme mi sembra un'operazione sbagliata, Saro. Mi perdoni Cruciano, sì, lo capisco che può sembrare brutto quello che dico, lo capisco, però ma lei crede di fare la stessa informazione che fanno queste signore, Cruciani? E lei è un organo della Confindustria, volendo, è una radio che ho la prima. Quella, ma sai, io non so dove vuole arrivare lei, non ho capito con questo ragionamento, mi spieghi? Voglio arrivare che se non esiste un regime assimilazione allora a Mussolini, esiste però una sorta di pararegime mediatico, perché mi consente a Cruciani con pararegime. Me lo faccia dire come espressione personale. No, ma lo dica come espressione di che cosa lo vorrebbe dire? È chiaro che è un suo pensiero, no? Sì, per cui, ma voglio dire, allora. tre reti sono di proprietà sua, altre tre reti sono statali, di cui due. Poi c'è un certo Minzolini, che con tutto il rispetto per la sua figura. Ho capito, secondo lei Berlusconi, quando è Presidente del Consiglio, controlla Mediaset e poi indirettamente controlla anche due o tre giornali della Rai. Ho capito, Saro, ma non è un discorso nuovo, diciamo, no, Saro? Cruciani, non è un discorso nuovo. Non è un discorso nuovo perché si è presentato nel 94, sì, nel 2001, nel 2008 adesso. Non è un discorso così originalissimo, diciamo, no? È un discorso anomalo. Poi chi è stata non è un discorso anomalo, è un discorso... Delle reti unificate, canale 5 e TG1, ma dove siamo? D'accordo, grazie. Enrico da Milano. Ecco, buonasera. Dica. Dottore, grazie e complimenti per la trasmissione. Io sono un affezionato ascoltatore della sua trasmissione, oltre che un lettore di Avvenire, e un ascoltatore altrettanto affezionato di Radio Maria. Sì. Quindi l'intervento di Don Livio a me è piaciuto ed è sembrato anche abbastanza composto, vista la precedente esperienza che abbiamo avuto con Boffo, che dopo una gogna mediatica pazzesca è stato estromesso. Cosa le è piaciuto dell'intervento di Don Livio Fanzani? Sì, a me, cioè, è un risentimento, penso, diffuso di certa parte cattolica, che ci possa essere un accanimento da parte di certi organi. No, però mi scusi, al di là al di là di alcuni commenti che ci sono stati su questa vicenda, che magari sono stati sbagliati, eccetera, se ci limitiamo a quello che è accaduto negli Stati Uniti, c'è il New York Times che ha preso dei documenti, il Vaticano contesta questi documenti, oggi il New York Times ha risposto dicendo che la documentazione è seria. Non è detto che la ragione sia dalla parte del Vaticano, no, che no. Parla di... Però ecco, Don Livio dice una cosa, ma insomma è possibile che ci sia cristiani uccisi, cattolici uccisi in tutte le parti del mondo e anche giornali tranne Avvenire danno zero informazione. Ah, però mi scusi, in questo caso però ma cosa c'entra? Ho capito, però non si può, siccome si parla degli scandali della pedofilia all'interno del mondo cattolico, allora però, la risposta è: però non parlate dei cristiani uccisi non so dove. Che risposta è? Le prime pagine dei giornali ha una vicenda che dopo tutto riguarda uno sparuto gruppo di preti, perché in percentuale sono pochissimi. D'accordo, dico, però è inaccettabile questo discorso. Lei dice si dà più spazio all'inchiesta sulla pedofilia piuttosto che ai cristiani uccisi nel mondo. Può darsi che sia così, Enrico, però insomma ciò non toglie che su quelle questioni che riguardano la pedofilia bisogna rispondere. Non è che si può rispondere solamente in questo modo dicendo no, date più spazio anche ai cristiani uccisi in tutto il mondo, o no? Di Falzaga, di Don Livio Falzaga, mi è servato un po' sarcastico nei confronti del tono di Don Livio. Io l'ho visto anzi addirittura composto, conoscendo Don Livio, vedendo come ragiona lui e la sua passione che ci mette. Dopotutto non stiamo parlando neanche del direttore d'Avvenire, stiamo parlando del Papa, per cui penso che certi giornali potrebbero anche usare meno dei toni trionfalistici, ecco. Non lo so, il trionfalismo, Fanzaga se la pigliava col titolo di Repubblica, attacco al Papa, e effettivamente così è stato. Mi sembrava un titolo sobrio rispetto ad altri. È un titolo in cui si dava conto delle... Oggi, anche il Corriere della Sera ha fatto le prime pagine su questo argomento. Non mi pare che ci sia un attacco voluto da parte dei principali quotidiani italiani nei confronti della Chiesa. Enrico, la ringrazio. Antonio da Genova. Buonasera Cruciani. Prego, dica. Intanto apro con una battuta. Mi sarebbe piacere vedere la seduta dietro la scrivania di Minzolini. Però il mio intervento voleva essere su Santoro e Luttazzi. Innanzitutto su Santoro. Vede, io ho vissuto metà della mia carriera all'estero e sono piuttosto d'accordo con il concetto che la trasmissione di Santoro ieri è stata tutte forti. Però ritengo sia necessario che il dissenso abbia voce. Ritengo sia necessario che un'opposizione, una critica a un governo debba potersi esprimere liberamente in televisione, alla radio e sulla stampa. E non trovo accettabile che invece un capo di governo possa effettivamente sviluppare una censura su stampa, criticandola quotidianamente sui giornali, o informazione in merito ai telegiornali, o possa decidere quali attori di satira o trasmissioni di informazioni possano o non possano essere messe in etere, anche se soltanto per un periodo limitato prima delle elezioni. Secondo punto, in merito a Luttazzi. Luttazzi ieri sera si è espresso a tinte estremamente forti, però Luttazzi fa satira. La satira deve dare spunti, deve far arrabbiare, deve suscitare delle sensazioni e delle emozioni, per cui sostanzialmente credo che abbia fatto il suo lavoro, non credo sia criticabile. Lei cosa ne pensa? No, ma nessuno critica la satira in quanto tale, Antonio, però non è che ci possiamo nascondere dietro questa cosa ipocrita per cui siccome fa satira eccetera. In quel contesto anche la satira aveva un significato particolare, no? Non era una trasmissione in cui Luttazzi ha un suo spazio eccetera, e chiunque era su quel palco, su quel teatro, in quel contesto rappresentava oltre che se stesso anche un ruolo ben preciso, cioè era d'accordo con tutta l'impostazione. Dunque anche la satira in realtà non era la satira di una qualsiasi trasmissione, o no? Su questo sono assolutamente d'accordo. È così. Chi ha guardato ieri la trasmissione, o chi è andato a Bologna o in piazza a sentire la trasmissione, sostanzialmente come me, pur non essendo un grossissimo simpatizzante di Santoro, ha voluto testimoniare il fatto di non essere d'accordo con la censura. Infatti, dunque, anche Luttazzi era su questa lunghezza d'onda, anche quello che diceva Luttazzi era su questa lunghezza d'onda. Guardi che poi a me Luttazzi piace anche come tipo di satira, spesso vado sul suo blog, è geniale, però non si può nascondere che anche là ha due fissazioni, Berlusconi e il sesso, cioè, su questo non c'è dubbio. Eccoci, 20:48, ci sono molte proteste anche nelle agenzie sulla presenza di Berlusconi questa sera al TG1 e al TG5 in contemporanea, in chiusura della campagna elettorale. Andiamo a Monza. Lara, buonasera. Sì, buonasera. Prego. Ma io volevo quasi un suo parere, direi, a questo punto, visto che sono molte sere, le ascolto regolarmente, ma in particolare queste sere non si fa altro che sentire parlare di attacchi da una parte, attacchi dall'altra, eccetera. Mi colpisce particolarmente il fatto che insomma si dia molto risalto quando Berlusconi dice che non sopporta questa gente che lo attacca, che il clima di odio, eccetera, eccetera, quando sappiamo tutti le affermazioni che fa, ha dato, adesso non mi ricordo se degli squilibrati ai magistrati, ha dato dei coglioni a chi non andava a votare per lui. Mi sembra che sia una guerra fondamentalmente tra fissati. Da una parte sono fissati a toglierlo, per così dire, di scena, dall'altra parte a lui fa buon gioco, ma anche lui fa la sua parte. Cioè, la mia impressione è questa, cioè, lui è il primo a insultare. O si insultano contemporaneamente. A me non sembra un grande livello di discussione, né dal punto di vista giornalistico né dal punto di vista politico. Cioè, a me piacerebbe che venisse azzerata questa cosa, che non se ne può veramente più, soprattutto per esempio tra giornalisti, perché i giornalisti dovrebbero fare informazione e non farsi a vicenda le pulci su quello che hanno detto e non hanno detto. Sì, ci sta l'intervento di, non so, di commento a un particolare, tipo vabbè, la trasmissione dell'altra sera, che personalmente non ho ancora visto, guarderò, ci può anche stare perché può essere il fatto del giorno, però che in generale ci sia una rincorsa, e a suo tempo era Facci che attaccava Travaglio che rispondeva a Facci, poi quell'altro che cioè anche tra i giornalisti si sta perdendo anche un po' il filo del discorso. La mia impressione è, da tra l'altro persona del mestiere, cioè che anche lì ci riduciamo poi all'osso. Anche le affermazioni che magari può fare un Berlusconi, che io non ho sentito dire da nessuno, magari non sono io abbastanza informata, quando parla di giustizia, ad orologeria, perché ha riguardato lui, si è dimenticato che contemporaneamente hanno arrestato uno del PD, in quel caso non era ingiustizia, no, anzi sull'arresto, non vale. Sull'arresto del PD, sull'arresto di Frisullo, Berlusconi ha detto finalmente c'è un giudice bravo a Bari, non so dove. Sono gli stessi giudici di cui lui si vanta che hanno arrestato durante il suo o comunque i PM che durante i suoi mandati arrestano, fanno gli arresti di cui lui vanta all'interno della mafia. Cioè, mi sembra che veramente ci sia uno stravolgimento di informazione e di sproloquio. Sì, guardi, sull'informazione, Lara, però devo dire la verità, noi cerchiamo di prendere spunto dalle parole della politica per fare anche della satira, per giocarci un po', per ridicolizzare la politica. La ringrazio. Pasquale da Genova. Buonasera Cruciani. Dica. Volevo parlare dell'atto di Calderoli, no? Una delle sue scenate che fa di solito un ministro della Repubblica, che ormai si è abituato, che può fare quello che vuole, tanto è tutto normale, passa tutto per normalità. Poi volevo dire di Santoro, che secondo me ha avuto un gran successo, nonostante che non era stata tanto annunciata come trasmissione su Sky, diciamo, no? È stata un po' a sorpresa. E secondo me ha avuto un buon successo anche in rete. E poi per quanto riguarda Luttazzi, è vero, c'è la fissa di Berlusconi e del sesso. Invece Berlusconi c'è quella del sesso e dei comunisti, quindi alla fine non è che siamo tanto certo tanto lontani, giocano. Tanto lontani da Luttazzi. Va bene, va bene, Pasquale. Ognuno ha le sue fissazioni, poi le sue ossessioni, ma non voleva essere una critica nei confronti di Luttazzi, tutt'altro. A me Luttazzi piace molto. Certo, insomma, se uno va sul suo blog è una sorta di è monomaniacale, c'è cioè un solo obiettivo spessissimo, Berlusconi, ma d'altra parte insomma è quasi inevitabile. Ferruccio da Siena. Pronto, buonasera Cruciani, buonasera. Buonasera, dica. Solo questo, in questo periodo ma anche da sempre, da quando c'è Berlusconi, si parla di regime. Ricordo, a me piace molto la storia. Questa gente che parla di regime, nella migliore delle ipotesi, la più buonista, sono degli ignoranti, altrimenti malafede, perché i regimi sono stati e sono diversi, sono altri, ce ne sono ancora alcuni in giro nel mondo, sono diversi. Qui in Italia se uno vuole va in piazza, dice quello che vuole e non succede nulla, tutto qua. Ecco, basta, non ho altro da dire. Grazie Ferruccio per questa precisazione però necessaria. Renzo da Firenze, buonasera. Buonasera, salve Luciani, io sono diventato da poco ascoltatore di questo spazio e niente, di nuovo con una certa propensione in lei, non so, verso il centrodestra, ma non tanto propensione verso il centrodestra. Sì, cercavo. Lorenzo, non mi risulta francamente, guardi, le posso assicurare che non è così. No, di fatto sai che cosa? È come lei, il tono è come lei risponde alle persone quando le si muove certe affermazioni. Questo non è che io voglio dire che lei ha un difetto in essere per quanto riguarda il... Però Lorenzo, lei deve precisare un po' questa critica perché altrimenti non la capisco. No, le volevo dire semplicemente che secondo me lei ha un'idea ben precisa su come sarà la sua carriera nel prossimo futuro. No Lorenzo, guardi, lei si sbaglia su questo. Ma io infatti lo accetto, ma le dico che non ho nessuna idea di quella che sarà la mia carriera, e quando parlo alla radio certo non è che penso alla mia carriera nel futuro. Le posso assicurare che non è così. E secondo lei che idea avrei, tanto per capire? Quando sento che invece in certi contraddittori lei va proprio ferratamente verso un'idea ben precisa. Secondo me lei vuole arrampicarsi in televisione, ma questo è... E allora cosa farei? Nulla, lei fa benissimo a offrire questo spazio in maniera che anche io posso dire quello che... E allora non ho capito qual è il punto, Renzo, non ho capito. Secondo lei io, siccome voglio fare televisione, allora cosa faccio? Diciamo che è tendenzialmente lei sostanzialmente non sarebbe di quell'ideologia. Non sarei ideologia quale? Quella del signor Presidente del Consiglio. Ah, ho capito. Dunque, secondo lei sarei un po' troppo indulgente nei confronti di... Un po' del passato, lei viene da Radio Radicale, dove appunto... Io a Radio Radicale sono stato pochissimo, tanti anni fa, Renzo, che c'entra poi Radio Radicale? Non mi sembra che i radicali in questo momento siano insomma favorevoli a Berlusconi, visto, tanto perché... Il suo passato in radio. Allora, ma cosa c'entra? Da scrittore, da... Poi leggerò quello su Monte e magari poi... Guardi Renzo, la richiamerò anche. Renzo, guardi, non c'è nessun tipo di... Quando sono qui a condurre Radio 24 non c'è nessun tipo di pregiudizio su nessuno e soprattutto nessuna idea su quello che avverrà nel futuro per quello che mi riguarda. La ringrazio, direi che possiamo chiudere, ci risentiamo. la settimana prossima, lunedì, con una serata elettorale qui alla Zanzara fino alle 22, perché finalmente ci siamo liberati dalle elezioni regionali. La Zanzara è radio24.it. Ci sentiamo lunedì 18:30. La Zanzara.